la versione di Oscar, Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, buon martedì 24 di marzo, 24-24. E oggi vi dico subito, non posso chiedervi le telefonate in diretta all'800-24-0024 e le opinioni al 349-238-6666, che però se volete mandare comunque poi le leggo e restano. Perché? Perché oggi sto registrando questa trasmissione con 2 ore di anticipo, perché poi nel pomeriggio con gli altri Radio 24 sono anch'io a Verona alle 17:30 alla Gran Guardia per parlare dei problemi delle aziende del vino, e quindi oggi devo un po' anticipare, me ne scuso, ma ve ne informo anche perché non sono in condizione di darvi gli aggiornamenti, ma ci penseranno i colleghi della testata Giornale Radio sulla tragedia che è avvenuta oggi in tarda mattinata, sapete, del volo della Germanwings, che è diciamo così la divisione low cost di Lufthansa, che è caduto con 142 vittime e 6 di equipaggio in Provenza, e nel momento in cui sto registrando ancora non sappiamo in realtà che cosa sia avvenuto, un'avaria o qualcos'altro, speriamo di no, ma purtroppo il bilancio delle vittime è molto serio. Allora, di che cosa parliamo oggi però? Parliamo di una vicenda che ha come sfondo la crisi italiana e che contemporaneamente però si segnala per la determinazione e la combattività della persona, un'imprenditrice che è il nostro ospite oggi, che ha deciso di non piegarsi alla crisi italiana e ha fatto di più, non solo ha fatto l'impossibile per tenere in piedi la sua impresa, un'impresa che si occupa di levigatura del legno, quindi siamo nella filiera, diciamo così, del mobile, quindi una filiera molto colpita nel nostro paese. Siamo nel nord-est, quindi nel cuore della cultura delle piccole aziende in filiera, ma non solo, ripeto, non ha chinato la testa, ha fatto l'impossibile, e vedremo in che cosa consiste, ma ha anche deciso di descrivere nei dettagli della sua vita personale, di quelli che le stanno intorno, della sua famiglia, dei suoi dipendenti e delle relazioni e delle impressioni che ha avuto per tentare di tenere in piedi la sua impresa con le articolazioni dello Stato, con la politica, e ha scritto questo libro che si intitola Io non voglio fallire, un'imprenditrice in lotta per salvare la propria azienda, che io ho letto d'un fiato e che mi sento di consigliare a voi tutti in ascolto. Sono 170-169 pagine che si leggono d'un fiato, l'editore è Nuova Dimensione, ripeto, Io non voglio fallire, un'imprenditrice in lotta per salvare la propria azienda, ed è con noi l'imprenditrice in questione e l'autrice del libro, che è un libro ovviamente che parla di questa storia e dei tanti problemi che in questa storia emergono e che però per tutti gli italiani, imprenditori e dipendenti di piccole imprese, restano come problemi consegnati attraverso questa esperienza all'agenda delle cose che bisogna cambiare, perché vedrete che abbiamo a che fare ancora una volta con le leggi dello Stato, con la giustizia lenta, ma abbiamo anche a che fare con dei privati che aggravano i guai degli altri privati, approfittando della legge per fare i furbi e per mettere nei guai i propri fornitori. E quindi ci sono molti spunti sui quali riflettere, e poi c'è un tratto di umanità. Io nel libro mi ha veramente molto colpito, in un paio di passaggi mi è venuto anche da piangere, lo ammetto, per come l'autrice è riuscita, con quel riserbo con cui si parla di sé e dei propri problemi, a far arrivare, a trasmettere questo senso di comunità. Cioè la figura di un prete, per esempio Don Livio, che mi ha molto colpito. Siamo in una società secolarizzata, però ci sono anche figure che sul lavoro, sulla difficoltà del lavoro, sulle imprese che chiudono, hanno saputo costruire una coesione nel nostro paese di cui spesso le istituzioni pubbliche non sono state capaci. Io raccontavo sempre il mio stupore nel vedere, quando gli imprenditori si suicidavano e continuano a farlo, che le istituzioni non vanno mai ai funerali. Allora, questa lunga premessa, ricordo il titolo del libro, Io non voglio fallire, un'imprenditrice in lotta per salvare la propria azienda, ed eccola qui con noi, Serenella Antoniazzi. Buon pomeriggio e grazie di questa testimonianza, Serenella. Buongiorno a tutti e grazie a lei, Oscar, è un'opportunità non da poco per me e per la mia squadra, grazie. Figuriamoci. Allora, lei nel libro inizia raccontando la storia di quando da giovane entra in azienda, è una classica piccola azienda del nord-est, quindi lei c'entra molto giovane, vero? Sì, l'azienda nasce nel 1972 e quindi cresce come mio fratello, o meglio, io cresco insieme all'azienda, e quindi è una specie di fratello per noi, che occupa tempo, fatiche e impegno per i miei genitori, come se avessimo un fratello piccolo che cresce insieme a me e ad Alessandro. E questo ci fa vedere anche una visuale della vita che, dove include l'azienda come parte fondamentale, perché appunto io poi comincio a lavorare a 16 anni, non è sempre una fortuna ereditare un'azienda, perché nessuno chiede sei felice di proseguire, e diventa quasi un obbligo abbandonare i sogni e proseguire l'attività del papà. Certo. Però poi crescendo diventa tua perché? Perché il cambio generazionale, sebbene mio padre ad oltre 70 anni sia ancora presente e attivo, c'è, e quindi la tecnologia che decidi di mettere all'interno, il nuovo rapporto che si creano con i dipendenti, diventa un'armonia con la tua vita all'esterno. Forse per questo lei ha sentito nei passaggi dove c'è la parte personale, l'emozione, perché non si riesce a staccare, capisce Oscar? Sì, no, no, io questo lo capisco e devo anche ricordare che a molti poi dipendenti che hanno perso il lavoro, magari prima della crisi non era così chiaro che il piccolo imprenditore poi. Lei racconta ogni Natale di questa storia della crisi, come è cambiato. No, no, ma lo fa con poche righe, perché non è che si diffonda molto, ma è chiaro esattamente quello che sta dicendo. Io credo che in questa crisi moltissimi milioni di italiani hanno capito che i piccoli imprenditori non hanno la distanza e l'indifferenza, che No. nei grandi gruppi e nelle multinazionali c'è inevitabilmente quando ci sono le grandi crisi e i licenziamenti di massa. È un'altra storia. Voi prima della crisi che esplode nel 2008, a quanti dipendenti eravate arrivati e che fatturato? Beh, ci sono stati momenti in cui avevamo anche 15 dipendenti. Pensi che nel registro dell'AGA, libro matricola, sono passate oltre 100 persone e quindi 100 famiglie. Sono cresciuti all'interno con mio papà, poi con noi, si sono sposati, sono nati dei bambini che adesso Quindi sono una dei comunità. E superiori. come capita spesso nel mondo delle piccole imprese italiane, quelle radicate nel territorio, AGA, il nome dell'impresa, viene proprio dai nomi Dai dei nomi, mio fondatori. papà Arnaldo e mio zio Giuseppe Antoniassi, che neanche a farla apposta nel nostro dialetto, aga vuol dire acqua, vita. Esatto. Allora, il problema però, oltre alle ragioni della crisi che investono il settore, del mobile e la filiera, andiamo al cuore che fa esplodere, davvero accelerare la crisi di cui avevate, come tutti quelli in filiera, già i primi segni tangibili. E il cuore della vicenda è quella di un'azienda di cui voi eravate fornitori, che vi rifila un pacco terrificante. È l'azienda dei fratelli Masiero, di cui, insomma, intorno a cui ruota tutta l'accelerazione, che vi porta al fatto di dover considerare l'autoliquidazione anche della vostra impresa. Questa fregatura, raccontiamola un secondo anche a chi non è tecnico e non sa di imprese, in che cosa è consistita? Allora, facciamo un passo indietro. Nel 2008, per il mondo del mobile, ci sono i primi sentori della crisi. Cosa si decide di fare? Perché se no sembriamo degli sciagurati, Oscar, anche. Decidiamo con insieme ai dipendenti di non licenziare, perché purtroppo insieme alla crisi nel mondo del mobile comincia anche l'edilizia. I mariti di alcune delle mie ragazze cominciano a rimanere a casa. Allora, di comune accordo, proviamo ad andare avanti, riduciamo gli straordinari, quando non c'è lavoro chiediamo di usare le ferie, oppure se le giornate o le ore sono poche rimangono vuoti, in maniera tale di abbassare anche le spese di fine mese. Così andiamo avanti. E i nostri clienti abbassano quello che è la richiesta di commesse, ma si tiene duro. Poi incontriamo un cliente molto grosso e in poco tempo si diventa monocomittenza, cioè un unico cliente da servire, chiamiamo così, che sotto un certo aspetto può essere anche una gran fortuna. Eh certo, quando con gli altri iniziano a entrare in difficoltà, averne uno Sì? così rilevante diventa una specie di grazia a cui rimanere attaccati. Quindi hai queste ali che ti proteggono, hai una produzione mensile già programmata, la scadenza, anche se lunga, è sicura, entri in una filiera dove hai la sicurezza che prima e dopo di te ci sono altri che credono e vai avanti. la faccia della medaglia che non va bene è che diventi suo, diventi anche un limone, perché se ti va bene così, se no si abbassano i prezzi, se ti va bene così, se no io allungo. In questo momento di crisi io allungo i pagamenti e tu soffri. E si comincia da 90, 120, 180, 200 giorni, 365 giorni. Si assumono tempi che sono uno di solito in Italia dice erano i ritardi dei pagamenti pubblici, ma invece anche i privati. No, stiamo parlando del mondo privato, certo. di un mondo lavorativo completamente privato. Mentre il cliente esporta e quindi riceve il suo pagamento al 15 e al 30 del mese, noi lo riceviamo a 365 giorni. A 30 del mese, ma di un anno dopo. Esatto. Quando si lavora a monocommittenza, cosa succede? La banca sconta dal 50 a un massimo dell'80% del fatturato, per cui aspetta la scadenza. I castelletti sono pieni e tu non hai liquidità. Mm-hmm. Allora, a garanzia del tuo credito viene dato in molti casi un assegno postdatato che ti rassicura su questo, ti dice guarda io sì ti pago fra 6 mesi ma ti do già il titolo. Lo si presenta in banca, lo si fa vedere, si fa una fotocopia e questo attenua un pochino la tensione che si crea. Perché? Perché non scaricandosi i castelletti, cioè non avendo rientro del fatturato anticipato dalla banca, non hai possibilità di avere liquidità, quindi i tuoi soldi virtuali, il tuo lavoro ha prodotto liquidità che rimane nel cassetto mai contestata, quindi lavoro eseguito e venduto e il cliente ha ritirato il pagamento regolarmente, tu ce l'hai solo cartaceo, cartaceo come numero. Cosa succede? Abbiamo una scelta da fare. Abbiamo già attinto ai risparmi di famiglia per tenere duro, la squadra è ancora compatta, crede in noi, ci sono dipendenti con noi dal 1985 e decidiamo di saltare i contributi avvertendo i dipendenti. Ragazzi, dobbiamo fare una scelta, o pagare voi o pagare i contributi. Naturalmente dietro al numero matricola dell'INPS delle persone ci sono famiglie, certo, adolescenti che vanno a scuola e tutto quel che segue. Si pagano i dipendenti, si comincia a creare un puzzle insieme al commercialista, quindi io salto il mese di aprile, però a settembre mi scade l'assegno, copro, rientro, l'INPS non fa neanche in tempo ad accorgersi che io sarò di nuovo in regola coi contributi. Ed io sarò di nuovo in regola. Solo che giorno dopo giorno la produzione aumenta al punto di arrivare a quasi 60.000 antine di produzione, una cosa incredibile, ma aumenta anche il debito. Aumenta il debito perché non si riesce ad incassare. Gli artigiani hanno, gli imprenditori in genere, i lavoratori autonomi hanno un vizio incredibile e un difetto che bisogna cambiare, cioè sono accecati dal lavoro. Il lavoro a tutti i costi, secondo noi, dà soldi, dà guadagno e dovrebbe essere così, ma senza regole non lo è più. Perché in realtà il vostro committente vi stava spremendo come un limone, vi copriva di ordini, tanto aveva già stabilito un sistema per cui vi pagava a un anno, nel frattempo sì, lui incassava e poi a quel punto, ironia della sorte, sparisce. Non sparisce, perché se fosse sparito l'amarezza sarebbe No, ma sparisce, minore. Io dico in senso legale, per così dire. Esatto, e in un mese, nel giro di un mese, le sue aziende di proprietà, che sono ben 4, falliscono. Mm-hmm. Falliscono, una delle 4 riparte l'indomani, esatto, con affitto d'azienda e per noi crolla il mondo. Perché voi non siete stati ammessi nemmeno a nessun concordato preventivo, quindi voi rimanete per strada non pagati, mentre lui, con le leggi che glielo consentono, a dire la verità, non vi ha pagato, ha incassato, va in autoliquidazione e a quel punto automaticamente riparte. Ecco, questo è un buco clamoroso che è da sanare nel panorama legislativo italiano, che pure è cambiato in questi anni di crisi, però queste procedure che sono purtroppo state molto più regola che eccezione, di furbi tra privati che mettono sul lastrico altri privati, sono stati un pezzo della crisi su cui ancora non abbiamo riflettuto. la versione di Oscar. Eccoci qui, tornate, non in diretta, ma comunque siamo qui su Radio 24 per questa seconda parte della versione di Oscar, e siamo con Serenella Antoniazzi, un'imprenditrice del Nord-Est. La sua azienda sta a Concordia, si chiama Aga, che ha condensato in un libro di 170 pagine, Io non voglio fallire, un'imprenditrice in lotta per salvare la propria azienda, la storia della tenacia di lei e dei suoi familiari nel non piegarsi alla crisi e nell'affrontare anche una nuova cultura dei diritti del piccolo imprenditore, diritti da far valere sia nei confronti dello Stato, quando si sceglie di pagare i propri dipendenti per andare avanti e magari anche pubblicamente di non pagare i contributi a quel punto, ma anche nei confronti degli altri furbi privati, perché ci siamo fermati proprio quando la storia accelera la crisi dell'Aga, di questa azienda di Serenella Antoniazzi, perché un grande committente, di cui era loro erano diventati praticamente monocommittenti, quindi lavoravano solo per loro, dopo aver diluito sempre più i pagamenti fino a un anno, a un certo punto legalmente sparisce, e quindi loro si trovano a quel punto zero commesse, zero liquidità di quelle che avevano realizzato col loro lavoro mai contestato nei mesi precedenti, e gli altri invece ripartono come se nulla fosse avvenuto. Allora, Serenella, questo primo troncone della storia, cioè quello dei rapporti tra privati da regolare con leggi diverse, è instradato verso un processo, perché poi voi alla fine avete avuto anche la forza di mettere insieme un po' di aziende che come voi si trovavano nei guai e di incardinare un'azione nei confronti del vostro cliente sparito, per così dire, senza pagarvi. È così, ma i tempi quanto saranno lunghi? Allora, per questa scelta di denunciare il fatto, lei prima parlava di Don Livio, c'è un cambiamento che ha provocato nel mio modo di pensare tutto quello che mi è accaduto, e vedo in questo momento la mia vita come una mela. Nella metà della mela c'è tutto quello che è accaduto, dove la legge deve essere seguita e ci deve essere una legge per fare le cose per bene. L'altra metà della mela, il mondo del lavoro, il mondo della vita normale, fatta di uomini che senza valori o senza legge che per forza ti deve obbligare a far qualcosa, diventa marcia. Allora io non volevo essere marcia, nel senso, la cosa giusta da fare era agire come il mio cliente, era fare un concordato, era dare un giro di chiave all'Aga e fallire, scaricare i miei debiti, i fornitori che credevano in me come io avevo creduto nel mio cliente. Era dare un giro di chiavi e lasciare che i miei dipendenti, che sono invecchiati insieme a me in mezzo alla polvere, entrassero nel fondo di solidarietà dell'INPS, perché io non potevo finire di pagarli nonostante avessero scelto di rimanere senza stipendio vicino a noi per 5 mesi. Questa era la cosa giusta da fare, questa era la cosa sensata che la legge mi dice di fare. Ma siccome io ho anche un'altra metà, che sono i valori che mi hanno insegnato i miei genitori e non ho dimenticato, ho cercato gli altri fornitori, ho spiegato quello che provavo, ho collaborato con la Guardia di Finanza. Alla fine siamo giunti ad una querela. Inizialmente non le nascondo che fosse per vendetta, perché mi hanno distrutto la vita, ma poi mi sono resa conto che c'è qualcosa che va oltre, che si chiama rimanere onesti, nonostante tutto. E se tu vuoi ritrovare pace, devi lottare. Io non so se ce la farò, ce la metto tutta al lavoro, io vivo di lavoro, vivo di polvere che un colpo di vento porta via, perché le vigarantine vuol dire vivere di polvere. Ma noi siamo una squadra e crediamo nel rimanere puliti e nell'agire in maniera onesta. Quindi io cerco lavoro, quando non lo trovo prendo la mia punto e corro in lungo e in largo. Prego, supplico, non mi vergogno a dirlo, ma ho la responsabilità di portare a casa commesse, perché voglio regalarmi, e me lo merito, questa opportunità di andare avanti. Allora, Serenella, io non nascondo che mi sono commosso anche ascoltandole questa sua tirata, perché io posso dire solo agli ascoltatori, leggetelo davvero questo libro, Io non voglio fallire, di Serenella Antoniazzi, Nuova dimensione, perché come avete capito l'individuazione dei buchi normativi per consentire a chi vuole andare avanti di andare avanti facendo quello che le associazioni di impresa non fanno, nasce dalla vita, dal sangue, dal calore di chi ha questa idea di come si sta con i propri dipendenti e non si rassegna a ridare altre fregature ad altri privati. Grazie Serenella, perché secondo me è una grande lezione di civiltà e non di impresa, di civiltà umana. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.